Ieri abbiamo fatto una conferenza stampa abbastanza importante a Bruxelles, ricordando la stampa bruxellese che a Lussemburgo succede qualcosa di importante, cioè il incontro dei governatori della BEI che per la prima volta si incontrano come nuovi azionisti, e noi pensiamo che questo è il momento giusto per avviare un processo di riforma della BEI, che è la banca mondiale più grande e la banca anche più meno trasparente e meno democraticamente controllato. C'erano un sacco di giornalisti, anche di importanti portatori di stampa. Oggi siamo andati a Lussemburgo per salutare i governatori direttamente nel luogo del loro incontro. Era anche questo abbastanza importante, tutti i governatori si sono fermati, hanno preso le nostre informazioni. Nella piattaforma, la piattaforma è un programma di riforma di base che si articola in 6 capitoli, in cui il primo è proprio sulla trasparenza mancante della banca. Noi chiediamo che le informazioni importanti per quanto riguarda i progetti che la BEI finanzia vengano pubblicate in tempo, così che la società civile ha il tempo utile per commentare e dialogare con la banca per migliorare i progetti o magari anche fermarli. Poi 2 domande sono rivolte all'importanza della BEI per le politiche dell'Unione Europea, e noi chiediamo che nei settori più importanti, quali l'energia, l'acqua, il mondizio, ci sarà un processo in cui la banca formuli una politica propria su come vuole avanzare le politiche dell'Unione Europea. Poi altre domande riguardano la lotta contro la corruzione che dilaga nella BEI, e anche di darsi un meccanismo di controllo su cui la cittadinanza attiva e le comunità che vivono vicino ai progetti si può rivolgere per protestare contro progetti. Questo è un programma minimo, e noi nella piattaforma diciamo che ogni anno, quando i governatori si vogliono incontrare, facciamo un rapporto di progresso per quanto riguarda le riforme di questi punti. La piattaforma finora è stata sostenuta da più di 60 organizzazioni europee soprattutto, fra le quali anche grossi ONG internazionali tipo WWF e BirdLife.